con Luciano Linzi della Casa del Jazz per parlare del 14º compleanno della Casa del Jazz il 22 aprile 2019. Luciano, ben trovato. Grazie a te e agli ascoltatori. Vedevo il programma molto ricco, raccontaci un po'. Sì, è come dicevi il 14º compleanno di questa struttura invidiata, ammiratissima da tutto il mondo, che è stata aperta il 21 aprile del 2005, 21 aprile Natale di Roma, che quest'anno coincide con la Pasqua. Ecco perché abbiamo pensato di sfruttare la Pasquetta, lunedì 22, per una serie di eventi, di iniziative che animeranno un po' tutta la struttura, in tutti o quasi i suoi spazi. Cominceremo la mattina dalle 11 con, tempo permettendo, un'animazione nel parco con Massimo Nunzi e il suo progetto Gioca Jazz, che in questa giornata in particolare verrà ampliato ad un'orchestra di bambini di Fiuggi, perché con questo evento, con questa occasione, intendiamo lanciare il progetto proprio della formazione di un'orchestra jazz di bambini e anche a dell'insegnamento a loro dedicato in questo senso. Successivamente poi abbiamo altri due concerti molto importanti nel pomeriggio alle 5 con Enrico Pierannunzi, con un trio molto particolare, un trio quasi cameristico che lo vede al fianco di Gabriele, fratello Gabriele, violinista classico di grande fama, e Gabriele Mirabassi, che è invece uno dei più grandi clarinettisti jazz del nostro paese. Il progetto è Play Gershwin, perché così si intitola un disco che recentemente Enrico ha inciso dedicandolo proprio delle trascrizioni di alcuni dei capolavori di Gershwin per questo organico molto particolare. La sera invece chiuderemo con lo spirito, diciamo, più tipico del jazz, della jam session, perché Enrico sarà nuovamente sul palco, questa volta con una ritmica tradizionale per il jazz, quindi un trio con contrabbasso, Luca Bulgarelli e il grandissimo Roberto Gatto alla batteria, e come sezione ritmica di casa del jazz in questo caso, accompagneranno una decina di ospiti speciali, musicisti tutti italiani di generazione diversa, da Marcello Rosa, Gigi Munari, per arrivare a Maurizio Giammarco, Mazzionata e musicisti delle ultime generazioni come Marco Colonna, come Simone Alessandrini, piuttosto che Francesco Diodati e molti altri. Un compleanno sotto un segno importante, è nata la Casa del Jazz in uno spazio che era della criminalità organizzata e quindi un bene sottratto e restituito alla comunità. Sì, hanno questo altissimo valore ancora oggi, è un luogo simbolico importantissimo. All'epoca fu aperta grazie anche alla volontà dell'allora sindaco di Roma Walter Veltroni, alla volontà di Don Luigi Ciotti dell'Associazione Libera, che immaginarono appunto di dedicare questo luogo che era stato confiscato a uno dei boss della banda della Magliana ad un utilizzo pubblico, popolare, però dedicato appunto a delle attività culturali, in particolare proprio che questo luogo venisse dedicato totalmente alla musica jazz, alla sua divulgazione, allo studio, alla sua documentazione, e fosse aperto tutto l'anno in questo senso. Ecco, com'è stata il lavoro e la fruizione del pubblico in tutti questi anni? È stata molto importante perché, come sappiamo, jazz in questi ultimi 15-20 anni, jazz in particolare nel nostro paese, jazz italiano, gode di un favore, di un momento ormai che si protrae da molto tempo, molto molto positivo, importante. Grandissimi musicisti nostri si fanno apprezzare all'estero da molto tempo, incidono per le più importanti e prestigiose etichette straniere, sono nei cartelloni dei festival più importanti, ma al loro seguito in realtà questa musica, che ha ampliato la sua diffusione anche a luoghi come questo, ma non solo, ha potuto trovare il favore, l'interesse e la curiosità da parte di nuove generazioni musicisti che si sono avvicinate allo studio di questo linguaggio tuttora rivoluzionario, musicale ed artistico, presso i conservatori, che per esempio adesso hanno tutti, sono dotati tutti di una sezione, di un dipartimento dedicato, cosa che un tempo era assolutamente inimmaginabile. Quindi a questo si aggiungono anche moltissime scuole, anche private, con questo tipo di indirizzo. Tutto questo, evidentemente, questa alfabetizzazione jazzistica di altissimo livello ha reso possibile anche lo svilupparsi, l'evolversi anche di un pubblico molto, molto più attento anche a questa musica e al suo sviluppo. Ecco, al momento quali sono le attività fisse della Casa del Jazz che hanno un calendario settimanale? Noi dunque abbiamo riaperto la Casa del Jazz lo scorso anno, a giugno, dopodiché l'assessorato alla crescita culturale del Comune di Roma, in persona di Luca Bergamo, ha deciso che questa struttura venisse gestita dalla Fondazione Musica per Roma, che quindi è Auditorium, Parco della Musica, e la Fondazione Musica per Roma ha con grandissimo entusiasmo preso questo incarico e ne sta rilanciando le varie funzioni. Noi abbiamo in questa struttura una sala concerti che viene davvero invidiata e stimata moltissimo anche dai molti musicisti stranieri che ospitiamo. Ieri sera per esempio era qui il sassofonista Bob Reynolds col suo gruppo, che è un sassofonista giovane americano, il sassofonista della formazione di Snarky Puppy, che immagino conoscerai, che è uno dei gruppi che in questo momento sta raccogliendo il maggiore favore dal pubblico più giovane che segue le musiche legate al jazz e dintorni, e appunto ci ha fatto i complimenti per la qualità acustica, per la dimensione anche davvero speciale che si viene a creare in questa sala, l'acustica perfetta, la qualità tecnica degli impianti, la possibilità di avere appunto una dimensione ravvicinata come quella, diciamo, di un jazz club, ma in realtà con l'aspetto di una sala da concerto. La struttura ha poi appunto anche sin dalla nascita delle sale che sono dedicate alla documentazione, allo studio, che sono l'audioteca, la biblioteca, che noi auspichiamo di poter riaprire e portare in attività presto dopo l'estate. La struttura poi ha anche degli studi di registrazione, anche questi strutturati, ideati, immaginati con delle qualità tecniche davvero, davvero superiori, e delle aule che vengono utilizzate anche per assolutamente allestite a tale proposito, utilizzate anche per la divulgazione e la didattica. Quindi l'attività della Casa Jazz oggi è composta appunto da un'attività concertistica che però sottolinea in particolare l'attenzione nei confronti di musicisti giovani, italiani, di musicisti anche stranieri che però abbiano la difficoltà magari di potersi esibire su piazze così importanti come quelle della capitale, e questi concerti li realizziamo grazie alla collaborazione con i vari istituti stranieri di cultura o le ambasciate presenti in città. E poi un'attività molto ricca dal punto di vista divulgativo che svolgiamo utilizzando l'opera di alcuni dei più insigni musicologi italiani che si occupano di jazz, come Marcello Pira. Cicli di questo genere li abbiamo svolti anche nei mesi, nelle settimane passate, appunto con anche personalità come Luca Bregadini, che ha svolto dei cicli molto interessanti in cui ha analizzato l'evoluzione del blues, insomma uno degli ingredienti principali che ha portato poi a comporre il linguaggio jazzistico, oppure analizzato il rapporto fra blues, jazz e la musica classica, l'influenza che queste musiche hanno avuto anche su compositori classici come Debussy o Ravel, ad esempio. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, assolutamente, il sito nostro è casadejazz.it. I nostri programmi sono adesso, ovviamente per questa nuova gestione dello scorso anno, regolarmente su sul sito dell'auditorium, quindi auditorium.com. Il nostro calendario mensile è regolarmente pubblicato all'interno della magazine mensile che viene prodotto appunto dalla Fondazione Musica per Roma per l'Auditorium Parco della Musica, e poi ovviamente siamo presenti sia su Facebook che su Instagram, quindi diciamo un'attività anche social molto molto fitta, sempre a cura dello staff della Fondazione Musica per Roma. E allora ricordiamo il 14° compleanno della Casa del Jazz, il 22 aprile 2019, un saluto e un ringraziamento a Luciano Linzi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille della collaborazione e un saluto affettuoso a tutti gli ascoltatori.